questa partita loro la giocano fuori casa, però sapevamo di questa spensieratezza tattica da parte dell'allenatore Stramaccioni, quindi eravamo pronti, ma non ci ha trovato assolutamente impreparati. Però l'ho sentito con le mie orecchie, l'ho visto con le mie orecchie e ha fatto ironia sulla spensieratezza tattica dell'allenatore dell'Inter e dell'Inter. Tutti convocati di Carlo Genta. Male, male, ma quale bene, bene, male, male, male, male, un disastro. Cosa dobbiamo dire? Mi pare che l'Inter, a proposito, saluto Franco Piantarini in redazione, autore di questo programma, e Fabio Cantadoni in regia. Mi pare, posso sbagliarmi? Correggetemi se sbaglio, 800240024, mi pare che l'Inter provinciale spensierata funzionasse meglio. Poi dopo la Juve si sono sprovincializzati e evidentemente impensieriti, non lo so. E la Juve a motore spento si trova nella stessa situazione di un mese fa, ottava giornata, Napoli secondo a meno 3, allora era meno 2, cioè allora era meno 3, oggi a meno 2, Inter meno 4 con la Fiorentina. E stavolta non c'è nemmeno lo straccio di un paravento col fischietto dietro il quale ripararsi, poveri interisti. Partita di Parma, com'è andata? Chiedere a Sansone, che ha sdraiato l'Inter. Accelera Sansone, va in percussione, scattato Biabini. Sansone non lo tengono, zona tiro, Sansone è limite, parte il tiro, rete, Sansone, il Parma in vantaggio. Sansone, no! Ups. Sansone. C'è tanto orgoglio, io ho detto sempre che io mi sento italiano anche se sono nato a Monaco e sono fiero di essere italiano. Ero interista, devo ammetterlo. Poi però sono diventato milanista. C'è mio fratello a casa che voleva la maglia di Milito, però non me l'ha data. Diego, ti devi scusare con mio fratello Roberto che non ha ricevuto la tua maglia. Sansone, ma non si cambia squadra. Mamma e la squadra non si cambiano mai. Io saluto e ringrazio, faccio i complimenti al presidente del Parma, Tommaso Ghirardi. Buongiorno presidente. Buongiorno. Complimenti, Grazie mille. Comincio da una domanda difficile. Posso? Prego, prego. Cosa ha bevuto ieri sera per brindare? È meglio non dirlo, non diamo esempi negativi in radio. Ma come no? Cioè, avrà bevuto un... Lambrusco parmigiano. Lambrusco parmigiano mi sembra la scelta migliore. Stavo dicendo prima che l'Inter non è più provinciale spensierata, se no Stramaccioni si arrabbia. Viene a Parma, gioco una partita che definirei invece presuntuosa, così magari Stramaccione si offende anche di più, e un bel Parma la stende. Ma noi dobbiamo fare la miglior partita dell'anno e trovare un avversario che non faccia altrettanto. Sicuramente l'Inter non ha fatto la migliore partita dell'anno, però credo che i meriti del Parma non siano da sottovalutare, perché abbiamo pressato molto bene, siamo stati attenti, abbiamo aspettato il loro errore e sicuramente abbiamo messo molta determinazione, molta grinta, e siamo riusciti a fare una grande prestazione. Cosa le ha dato più soddisfazione? Magari il gol di questo ragazzino, che si sente italiano anche se è nato a Monaco? Ma guardi, queste sono delle intuizioni che fa il nostro direttore, che fa insieme a tutti i suoi collaboratori, da grande soddisfazione, perché alle spalle ci sono dei progetti, l'abbiamo preso 2 anni fa, l'abbiamo mandato un anno a Crotone a fare esperienza e adesso ha già fatto 2 gol con 3 presenze, è stato convocato in Under 21 e oltre a lui ce ne sono altri che provengono sia dal vivaio e sia da scommesse vinte, pur essendo molto giovani, perciò sono contento per la classifica, perché quella è importante. Mancherebbe altro, siete lì davanti, 20 e punti. Sono contento per tutto il nostro movimento, per tutti i nostri tifosi, per la nostra gente. Ma sa, mi sembra una squadra costruita in maniera intelligente per i suoi obiettivi, il Parma. Un bel melting pot tra vecchi lupi di mare dei campi e ragazzini con talento. Questa mi sembra sempre l'idea migliore per gli obiettivi che dovete perseguire. Sì, esattamente. Occorre l'esperienza dei grandi giocatori come Mauri, come Zaccardo e come Valtessi in regia. E poi giovani promettenti, e giovani che stanno già facendo bene da anni, perché Rosi ad esempio a mio avviso è un grande giocatore che noi abbiamo preso dalla Roma e sta facendo molto bene, ha un'età ancora giovane, E poi insomma tutti, perché veramente hanno fatto veramente una grande partita. Senta, ancora questo le chiedo, adesso tutti a Roma con la Lazio che ancora non si sa dove sarà perché deve giocare stasera, mi sembra un po' troppo sbriciolato questo campionato anche se Sky vi dà un sacco di soldi. Ma guardi, sì, sono d'accordo, tra l'altro neanche sapevo che la partita della Lazio fosse stasera, ero convinto che giocassero anche loro ieri fino al tardo pomeriggio. Io credo che già spezzettare nel weekend sia sufficiente, però qua ci sono le esigenze di quei club che giocano il giovedì in UEFA, però ripeto, se devo essere sincero preferirei anch'io che fossero giocati il sabato e domenica e basta. Sì, intanto c'è un ascoltatore che le vuole rubare l'allenatore, mi domanda via SMS se fosse Roberto Donadoni il Guardiola del Milan nella prossima stagione. Ma io auguro Donadoni una grande carriera come ha avuto da calciatore. Lui adesso ha appena fatto un contratto con noi che lo lega per altri 2 anni e l'ha fatto senza aver nessun obblighi e senza nessuni timori. Perciò io penso che lui stia bene a Parma, voglia rimanere a Parma ancora un po' e io ovviamente me lo auguro. Su ex pupillo Giovinco non mi sta convincendo tanto nel suo primo spezzone di stagione juventina. Ha avuto tanto campo, ma mi sembra riesca ad incidere poco. Conviene avere pazienza? Ma guardi, io sono di parere opposto. Per me sta facendo molto bene, sta facendo un grandissimo campionato. È chiaro che può fare molto di più e che i tifosi si aspettino di più. Però obiettivamente, realisticamente, perché l'ho vissuto anch'io sulla mia pelle, il salto da un club così importante, cioè da un club come il Parma a un club così importante è molto difficile. Io ho vissuto questa esperienza dalla Serie C alla Serie A e credetemi che il frastuono mediatico, il frastuono popolare è veramente pazzesco, e perciò ci vuole almeno una stagione per consacrarsi, o almeno una stagione per abituarsi a dei palcoscenici così importanti da protagonista. Io credo che se Conte sarà bravo a dargli fiducia come ha fatto fino ad ora, l'anno prossimo la Juve avrà un grandissimo campione. Ragazzi, piove sull'Inter, bellissima questa canzone di Guns N' Roses, ma di una tristezza sconfinata, quasi come il novembre nerazzurro. 3 novembre batti la Juve, sei lì pronto a, forse al sorpasso, poi un punto in 3 partite. Piove come oggi a Milano in questi giorni così grigi. Speriamo che alla Spezia, dove c'è Graziano, primo convocato di oggi, 800 24 00 24, sveglia tutti, che vi voglio sentire le vostre voci. Spero che almeno lì ci sia un po' di sole. No, qui no, niente da fare. Piove che Dio la manda. Non che Dio la manda, adesso sei un po' calmato. Domanda, che Dio la manda. La sconfitta, a parte che a Parma secondo me si può perdere, c'entra qualcosa il caso Sneijder? Ho messo guardi. In campo un Alvarez inguardabile perché lo dovevo tenere per forza fuori. Guardi, secondo me è meglio Sneijder con una gamba sola, mezzo infortunato, rispetto ad Alvarez e a Coutinho, che in due non fanno certo Sneijder, ma neanche ci arrivano vicini. Se Sneijder è a casa, messo in castigo, fuori rosa, perché non vuole allungare un contratto che scade, se non ricordo male, nel 2014, c'è qualcosa che non funziona tantissimo. È altrettanto evidente che i rapporti tra Sneijder e l'Inter si sono consumati nel corso degli ultimi 2 anni, però mi pare bizzarro che un giocatore di questo tipo, che era uno dei più forti del mondo fino a un paio d'anni fa, nella grande protagonista della stagione triplete, poi fra voci di cessione, un sacco di infortuni, ma io credo dovuti anche alla, al fatto di essere un po' demotivato da questo, da questa sensazione di non essere più così gradito. Allora Snyder a casa e l'Inter perde a Parma. Mi è venuta così tanta tristezza, mi è venuta così tanta tristezza a parlare di questi discorsi che vado a Napoli dalla più bella tifosa del Napoli che io conosca, almeno tra quelle che conosco certamente. Caterina Balivo, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono la più bella solo perché conosci solo me, ma va benissimo. No, ne conosco un sacco di tifose del Napoli, ma meglio di te non ho trovate, mi spiace. Sei un grande, ciao, buon pomeriggio a tutti. Senti, ma non penserai mica di vincere lo scudetto? Ma guarda, io sono scaramantica, non pronuncio mai quella parola che tu hai detto. Quella parola che io ho detto, scudetto, scudetto, scudetto, posso dirlo tutte le volte che voglio? Sì, tanto adesso attacchiamo, butterò del sale grosso giù per le scale, non si può fare. E quindi va bene così. Insomma, non capisco una cosa. Dimmela. Appena il Napoli ha successo, sono tutti quanti a guardare il Napoli. Certo. Napoli è attraente il Napoli. Sì, ma infatti voi giornalisti potreste guardare anche le altre squadre. Ma lo facciamo continuamente, però Napoli è secondo in classifica. Ma ti spiego, perché veramente per un fatto proprio scaramantico tutti cominciano a dire: ah, il Napoli stava bene, il Napoli può vincere, il Napoli così. Guardate le altre squadre e non ci fate troppo caso. Lo lasciamo lì, cioè sotto traccia. Anche i calciatori si mette ansie. Blue Submarine. Ansia da prestazione, capito? Sì, mi sembra che Amsic di ansia da prestazione ne abbia poca. Sta giocando una stagione fantastica. Senti, ma tu chi preferisci? Ma perché il mio Cavani? Preferisci Cavani? No, io sono una fan spiegata di Cavani. Senti, adesso faccio caricare al volo una cosa che abbiamo, così ci divertiamo. Dopo un gol di Cavani l'avrai sentita anche tu magari, ma senti quanto vale il tuo Cavani, vediamo se riescono a recuperarmela al volo in regia, vai. Okay. Cavani che si scatena, venite pure qua, venite, 60 milioni di euro ce li avete in tasca per comprarvi l'attaccante più forte al mondo, se non ce l'avete restate dove siete. Geniale! Quanto ha detto? 70 milioni di euro? Mi pare 60, ma è comunque una cifra che io non riesco nemmeno a immaginare. Beh, infatti, assolutamente, infatti non immaginiamo, nessuno ce l'ha e quindi Cavani resta dove sta. Quest'anno. Senti, mi avete chiamato per starmi a arrabbiare? No, ditemelo. No, ma quest'anno, poi io... Vuoi sangue? Sangue dal telefono, dimmi, non c'è problema. No, però onestamente, Amsic, cioè Cavani segna quanto vuole, è un giocatore meraviglioso che io vedrei, ad esempio, è il giocatore ideale per la Juventus, il grande giocatore che potrebbe fare la differenza nella Juventus, però Amsic dopo una stagione così, davvero sta facendo i numeri, L'unica cosa che ti prego solo di non farti la cresta nel caso in cui il Napoli commette una cosa importante. Guarda, gliel'ha fatto già mio figlio che ha un ciuffo davanti, sai che ho 6 mesi quasi, e quindi è nato con un sacco di capelli, la maggior parte sono caduti, gli è rimasto questo ciuffo al centro. Grande. E io ormai da quando ha 2 mesi che gliel'alzo. Come si chiama? Marek? Si chiama Guido Alberto. In realtà io volevo chiamarlo Cavani, non merito. Volevi chiamarlo Cavani? Neanche Edison, proprio Cavani. No. Senti Caterina, io ti ringrazio e ti mando un bacio, scusa se ti ho fatto arrabbiare. No, niente, un bacio grande, forza Napoli. Scudetto. Sentiamo. Sì. Ciao. Ciao. Grazie Caterina Balivo. C'era un ascoltatore, non c'è più, si è spaventato? È caduto? 800240024, siete tutti convocati ogni giorno dalle 2 alle 3. In questo programma poi vi faccio sentire anche una divertente battuta di Galliani a proposito di Cassano. Mi fanno dei segni della regia che cosa state dicendo? Ah, la sentiamo adesso. Sentiamo cosa ha detto Galliani su Cassano. Pato non ha mai chiesto di essere trasferito. Pato ha chiesto, come chiedono quasi tutti i giocatori, di giocare, che è molto diverso. Cassano invece chiedeva con sms in continuazione all'allenatore e me di andare via, quindi era un martello continuo con Cassano che chiedeva di andarsene. Avete capito? Martello Cassano che inviava continui sms: voglio andare, alla fine l'hanno accontentato. Saluto e ringrazio Luca Calamà, inviato dalla Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Dunque, come scrivi tu oggi, peraltro, io ho usato altre parole, però l'Inter provinciale spensierata funzionava meglio di questa sprovincializzata e forse un po' impensierita. Ma io non è che ora seguo giornalmente l'Inter, no? Per cui calcolate che le mie sono valutazioni e riflessioni che maturano sul momento, no? Io ho visto una squadra che sembrava all'ultima giornata di campionato, sai quando c'hai le valigie dentro lo spogliatoio e scendi in campo col biglietto aereo per le vacanze, no? Sì. Una squadra annoiata, quasi infastidita da questa partita. E se ci pensi, doveva essere tutto il contrario, perché con la Juve che ha perso con un rigore che non c'era, poteva essere festa grande. No, doveva essere la partita della, tra virgolette, in cui l'Inter diceva: noi ti pigliamo, ma ti pigliamo subito. E la cosa più sorprendente in questa riflessione che ti ho fatto, che ripeto, lo ribadisco per la millesima volta, che non mi piace, essere abbastanza equilibrato nei giudizi, ma si è vista ancora più evidente nel momento in cui il Parma ha segnato. Cioè, il Parma non ha segnato al 45esimo del secondo tempo, sì, a due minuti dalla fine, certo, no? Certo. Dove a quel punto ti piglia anche lo scoramento. Cioè, avevi l'Inter aveva una buoni 20 minuti per almeno metterli lì e non li fare più uscire dall'area rigore, no? Sì. E invece hanno continuato a giocare come se stessero vincendo 3-0 o come se il risultato di questa partita fosse assolutamente ininfluente per quello che poteva essere la stagione. E questo, ti devo dire, è il dato più allarmante, perché le partite si vincono e si perdono. Tanto questo è un campionato a ribasso, per cui è un campionato dove ci saranno molte sconfitte, cioè non è che si vincerà con chissà che cosa. Però vedere una squadra, tra virgolette, così anonima, rassegnata, e ti devo dire che è un dato dal mio punto di vista più allarmante addirittura della sconfitta. Senti, mentre al Milan, dicevo ieri, è il tempo dell'amore libero, con una società che parla serenamente di Guardiola con il suo attuale allenatore Allegri, all'Inter mi sembra ci sia aria di separazione, mancano solo gli avvocati. Snyder ha lasciato a casa, secondo me non è stata una grande idea. Si dice non vuole allungare il contratto, il scade, dicevo, 2014. È tempo che l'Inter e Snyder hanno rotto i ponti. Sì. Vuoi per questione di ruolo, vuoi per questione di allenatori, vuoi per questione di mancate cessioni, forse promesse. Vuoi anche perché i giocatori, mi spiegano chi lo segue abitualmente, ha un carattere un po' particolare, e nel particolare sto basso. Sì. Se uno con un peperino molto sicuro di sé, ai limiti quasi tra virgolette dell'arroganza, anche se ci pensi bene, l'Inter, che fino a un mese fa era quasi perfetta nella gestione di tutto, non sembrava nemmeno l'Inter, e lo dico con grande affetto nei confronti dell'Inter, che a me piacciono più queste squadre un po' così da battaglia che tutti polli da batteria, no? Però non sembrava nemmeno l'Inter, tutti compatti, tutti uniti, tutti giusti. Ora invece ha perso un po' questo ragionamento. Perché? Perché la vicenda Snyder, quando la affronti come l'ha affrontata in questo momento l'Inter, un minuto dopo lo devi vendere. Ma sicuro. Perché questo è solo una negatività, no? Sicuro. Cioè, chi ha vantaggi in questa storia? Sicuramente non l'Inter. Sicuramente perché, non l'Inter e Snyder nemmeno. Ecco, perché dice, sai, allora io avrei immaginato più un concetto di dire: caro Giovanottino, invece di fare il fenomeno, te intanto fino a gennaio stai qua, ma cerca di giocare anche bene perché non ti vuole nessuno. Eh sì, in questo momento no. Reduce da un paio di stagioni da lungo degente, di rotture con vari allenatori, insomma, appunto, quello che era. Che No, c'è la fila per prendere Snyder. No, per cui, c'era la fila per prendere Snyder. Bravo, c'era, hai detto bene. Ora ci può essere qualche russo, qualche cosa. Allora, intanto Giovanottino comincia a giocare bene. E poi, guarda, se ne vai non piange nessuno. No, non ce ne importa più niente. Però ora lo utilizzo. Certo. Da ieri, se te vai a guardare per curiosità la panchina dell'Inter, è vero che c'erano degli squalificati, è vero che ci sono degli infortunati, ma te vai a guardare la partita, la panchina dell'Inter, è peggio di buona parte delle squadre di media classifica di Serie A. Sì, sì. E in queste condizioni non puoi pensare di vincere il campionato, perché quando poi devi cercare qualcosa o capovolgere qualcosa, entra Duncan che è un ragazzino, Livaia è un ragazzino, sì, lo stesso Coutinho. Che Coutinho e Alvarez, che insomma io preferisco Snyder con una caviglia gonfia rispetto a tutti e due insieme questi qui, quindi esatto, quindi però vedi queste un sono già riflessioni, vorrei dire quasi nello specifico, che non giustificano il fatto di una squadra che accetta di perdere. Ecco, l'Inter ieri ha accettato di perdere, e il non accettare di perdere funziona anche con una squadra di 11 ragazzini. Certo, certo. Allora certo, non c'è bisogno di avere in campo Cambiasso, Zanetti, Palacio, Miliso, Guarin. Ecco, questo devo dire che è il dato che da osservatore, tra virgolette, occasionale, è quello che mi ha colpito. Che ti ha colpito di più. Grazie Luca, ti ringrazio. Ciao, a tutti. Cercavo di attirare la sua attenzione, ero un bimbo goffo e non sapevo come. Poi c'era un tipo che si chiamava Sansone di cognome, che aveva gli occhi verdi e giocava da Dio a pallone. Non so che colore siano gli occhi di Sansone, però gioca bene a pallone di sicuro. Ha ragione un ascoltatore che scrive: rigore per la Juventus ci vuole nel metto, per il Milan silenzio, ieri rigore per il Cagliari silenzio. Ma come funziona, Paolo da Milano lo lega per favore? L'ho letto, sì è vero, c'era un rigore, ma Napoli gira bene in questo periodo, anche da questo punto di vista c'era un rigore per fallo di Gamberini su Conti, ed è giusto dirlo, con o senza il metto, meglio senza. Giuseppe da Isernia, buongiorno e grazie per l'attesa. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Dica. Da interista quasi la notte d'oro, hey. Sì, ci siamo quasi, però sono un po' d'accordo su quello che è stato detto, erano anche i miei pensieri, però sinceramente ne ho viste tante, però come la partita di ieri sera poi mi sono sentito tradito, ecco, veramente tradito è tanto, tradito è sì. Tanto, ha giocato male l'Inter ha fatto una pessima partita presuntuosa, era meglio quando era provinciale spensierata, anche se sì, Stramaccioni si incazza. Che stava in campo tanto per starci, cioè io metterei anche quelle lettere anche Guarin, che mica che volta perde una palla si ferma, mica non lo so, un centrocampo inesistente. No, hanno giocato male tutti, così come avevano fatto una partita strepitosa di squadra a Torino contro la Juventus, una grande partita disegnata alla perfezione dal punto di vista tattico, interpretata alla perfezione dai giocatori, una specie di capolavoro. Ieri sera al contrario, ieri sera hanno giocato una pessima partita, ripeto, secondo me piuttosto presuntuosa, senza quella, lo diceva prima Luca Calamai che l'ha vista lì dallo stadio, senza quella rabbia che uno si aspetta in momenti come questo. Giuseppe da Brescia, 800240024, convocati tutti. Giuseppe. Pronto? Pronto? Eccoci. Mi sente? Benissimo. Ascolti. Dica. Io volevo parlare del Milan. Sì? Perché lei ha fatto un pronostico sulla Champions del Milan. Sì. Se lo ricorda la settimana scorsa. Cannato in pieno, ma lei per caso è milanista. Ma cosa le interessa a lei? Per sapere, perché anche prima, nella trasmissione di oggi, continuare a sottolineare che il rigore non c'era, ma lei è sicuro che non ci fosse il rigore per il Milan? Sicuro che non ci fosse il rigore per il Milan. Sono sicuro perché... Perché della carta stampata e... Ma guardi, io sono sicuro che non ci fosse rigore per il Milan, l'abbiamo visto al replay, è stato punito quel salto scomposto di Isla, la palla gli è rimbalzata sulla schiena. Però quindi adesso non vorrei fare un intervento politico, io sono andato a votare alle primarie per il PD, sì, però sono milanista e non vorrei che ci fossero delle tendenze in questa trasmissione, ha capito? No, delle tendenze? Le giuro di no. Io rimpiango parecchio. Il buon Gigi, che faceva la sua fascia oraria e di tipologia di trasmissione, io lo rimpiango parecchio. Benissimo. Cosa vuole che le dica? Io adesso, adesso ci sono io, poi non ne facciamo certamente questioni politiche, questo glielo assicuro. Proviamo a divertirci un po' insieme e punto e basta. Se non si diverte, mi spiace. Comunque, per lei. Tornando sul discorso del Milan, il Milan ha fatto la sua partita e non è più il Milan, diciamo, che siamo abituati a... Giuseppe, il Milan ha fatto una grande partita da provinciale. Continuare a sottolineare che il rigore non c'era. Vabbè, mi stia a sentire. Il Milan ha meritato di vincere, su questo non ci piove. Il rigore non c'era, secondo me non ci piove nemmeno su questo. La Juventus ha giocato la peggior partita degli ultimi due anni e il Milan l'ha umiliata sul piano fisico. Quindi il Milan ha giocato una partita perfetta da provinciale, perfetta da non grande squadra qual è adesso, e ha vinto con pieno merito la partita. Su questo non ho nessun dubbio, così come sul fatto che quel rigore non ci fosse, ma chi se ne frega, cioè non è quello il punto. Come ha detto Buffon, la Juventus ha preso un rigore a un'ora dalla fine, ci fosse o non ci fosse non è stato in grado di reagire, anche perché il Milan gliel'ha impedito. Io ho visto giocatori di medio-basso livello, come Costanza ad esempio, mettersi ripetutamente nel taschino Isla, che è un giocatore che a me piace da morire, fuori condizione finché volete. Ho visto la Juventus correre il triplo, il Milan correre il triplo di una Juventus che, se non gioca con l'intensità che il Milan aveva l'altra sera, vale molto meno, diciamo così. Claudio Udine. Pronto? Eccoci. Ah, buon dì, gente. Buongiorno. Volevo solo dirle questo per quanto riguarda l'Inter. Premesso che io sono interista e che l'Inter ha meritato di perdere e non si discute. Premesso che non capisco molte delle scelte di Stamaccioni, anche se lui li vede, saprà lui, però le chiedo perché dite sempre il rapporto fra l'Inter e Snyder si è deteriorato e l'impressione che ho io è che sia sempre causa dell'Inter. Questo signore qua si è fatto vedere a fumare, a farsi i cavoli suoi con una pancia rilassatissima. E due anni che non gioca una partita decente. Al di là di questo, penso che l'Inter abbia anche tutto il diritto di pretendere qualcosa da questo giocatore. L'Inter non solo, Claudio, l'Inter non solo ha il diritto di pretendere qualcosa perché lo paga un sacco di soldi, ma l'Inter ha anche il dovere di metterlo in riga, perché ha ragione Calamai, che abbiamo sentito prima, poi verrà ceduto perché i rapporti sono ai minimi termini, eccetera eccetera, però l'Inter avrebbe il diritto e il dovere di pigliarlo per un orecchio e dirgli: ascolta, a gennaio fuori dalle scatole, perché tanto sappiamo bene che qui non ci puoi più stare per ragioni che non conosco. Giochi, fai il bravo, tutte e due ne abbiamo da guadagnare, però mi sembra bizzarro rinunciare in questo modo a un giocatore, lasciarlo andare per la sua strada fino a gennaio, quando, se non giocherà da qui a là, ogni giorno si svaluta sempre di più. E si diceva prima, non è che c'è la fila davanti all'ufficio di Moratti oggi come oggi per prendere Snyder. Lidano, Latina, buongiorno. Buongiorno. Allora, basta parlare di calcio, insomma, ne abbiamo un po' abbastanza, anche perché io con questa storia di Snyder ne ho un po' le scatole piene, ci ho speso troppo a fantacalcio, per cui sono depresso dal fatto che andrà via. Quanto l'ha pagato? Diciamo che un buon 30% di quello che avevo di budget. Ha sbagliato tutto. Sì, me ne accorgo solo adesso, purtroppo. Allora, no, io volevo parlare di basket, due cose molto veloci. Sì, prego. Allora, sì, purtroppo ho un ritorno che non riesco a sentirmi bene. Allora, no, dicevo molto velocemente, di là dall'oceano, cosa deve fare Toronto per vincere una partita, visto che Bargnani ne fa 35 e perdono di 1, Bargnani ne fa 4 e perdono di 2, per cui insomma c'è qualcosa che non va. Sì. E poi da quest'altra parte, tornando dalle zone nostre, un giudizio su una squadra che secondo me è la vera rivelazione di questo campionato, che è la mia Juve, che con i mezzi che ha a disposizione il buon Pino ci ha fatto già vincere 4 partite su 7. Juve che non è Juventus ma Juve Caserta, per ovviamente, anche se i colori sono gli stessi, anche se i colori sono gli stessi, il nome pure, e 4 sì. Vittorie secondo me sono un risultato che con i mezzi che abbiamo a disposizione sono qualcosa no, che è fuori dal mondo. Non c'è dubbio, mi auguro che Caserta sopravviva, anche se continuo a pensare che nella pallacanestro italiana servirebbe un bel paio di forbici per tagliare i rami secchi, con tutto il bene che voglio a squadre come Avellino, come Montegranaro, come la stessa Caserta, che sono in difficoltà conclamata e risaputa. È chiaro che Sacripanti sta facendo per l'ennesima volta un grande lavoro, però la società sarebbe, diciamo così, da risistemare. Quanto a Toronto, per vincere una partita dovrebbe avere una squadra, cosa che non ha Bargnani o non Bargnani. Toronto credo sia una delle squadre più tristi dell'NBA intera. Purtroppo sono già qualche anno che è così. Sì, è già qualche anno che è così, quindi non riescono ad essere felici, non c'è niente da fare. Non riescono a magari riescono anche a essere felici, è che sono brocchi, quindi non c'è molto da discutere su questo punto. Grazie, che va cambiato. Grazie Antonio Prato. Buon pomeriggio e complimenti per la trasmissione, anche per le altre trasmissioni di Radio 24. Senta, io vorrei fare una domanda riguardo il campionato di Formula 1, sì, che si è concluso domenica. Sì. Mi chiedo, visto che Vettel ha superato, sento un eco, il regime di bandiera gialla, perché non è stato fatto ricorso? Perché non se ne è parlato in nessuna trasmissione? Sì. Allora, facciamo così, subito dopo il traffico abbiamo in programma un appuntamento proprio per parlare di questo, per chiudere l'argomento Formula 1 con una voce che secondo me è la più competente che c'è in Italia dal punto di vista giornalistico. Lo chiederemo al nostro prossimo ospite, Antonio da Prato. Strade. Continuare a sottolineare che il rigore non c'era, ma lei è sicuro che non ci fosse il rigore per il Milan? Tutti convocati. Niente, saltato il traffico e comunque in questo giorno di pioggia speriamo che sulle strade funzioni tutto a dovere. Tanto tra mezz'ora c'è il prossimo appuntamento con le informazioni per chi è in viaggio. 800 24 00 24 invece è il numero verde e, come detto, volevamo chiudere l'argomento Formula 1. Partiamo dalla canzone preferita del tricampione del mondo, Vettel. You're the triple world champion, Sebastian Vettel. You are the man. You're a triple world champion. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Gusti d'antan per il giovine Sebastian Vettel, che quando è stata cantata questa canzone era ben lontano dal nascere, canzone dei Beatles. Dicevo, la voce più competente secondo me nel mondo giornalistico della Formula 1, non lo dico perché è qui, ma l'ho detto mille altre volte che non c'era, Giorgio Terruzzi. Ciao Giorgio. Buongiorno. Allora, io chiedo a te di rispondere a una domanda tecnica di un ascoltatore precedente, perché Vettel ha superato il regime di bandiera gialla e non è stato penalizzato? Partiamo da questo spunto di cronaca. Ma guarda, non lo so, nel senso che purtroppo in Formula 1 la gestione dei regolamenti è sempre fonte di problemi, perché non si riesce mai ad avere un metro costante, una modalità chiara di giudizio. Evidentemente il prezzo di una decisione del genere con un mondiale in ballo forse è sembrato troppo alto, non lo so, fatto sta che questa cosa è passata in cavalleria. Senti, invece, guardando alle cose più grandi, guardando alle cose definitive, io ho ad esempio sul monitor un messaggio: grazie, grazie, grazie e grazie ancora a Fernando. 3 punti con un'auto che ne aveva 50 di distanza dalla Red Bull. Ieri ho detto: Ma l'ho detto molte altre volte che se c'era un pilota che in questa stagione e soprattutto in questa stagione meritava il mondiale e merita comunque 10 è Fernando Alonso. La Ferrari non merita certo un voto così alto. Sì, io sono d'accordo, nel senso che il campione del mondo secondo me per rendimento, per qualità, per tenacia è stato senz'altro Fernando. La Ferrari non ha fornito picchi di competitività e devo dire che è stata anche la macchina che non ha avuto nessun tipo di... Alonso ha fatto un anno un percorso netto, cioè non ha mai avuto un problema tecnico o un problema di gestione della macchina, di strategia. La Ferrari ha chiuso anche, secondo me, ha fatto un finale di classe, di sportività, dato il contesto in cui poi potevano nascere complicazioni per Vettel. Certo, il problema è che la Red Bull è una macchina nata meglio, il problema è sempre quello, cioè una macchina che è nata bene e quindi su un talento, diciamo così, tecnico, parlando di una macchina come di un atleta, è stato possibile sviluppare, migliorare, la Ferrari è nata peggio e i limiti si sono visti. È vero che senza Alonso probabilmente le distanze sarebbero state più nette, è anche vero che Alonso ha perso secondo me almeno 40 punti sicuri con due incidenti, le uniche due volte in cui non ha preso punti causati da altri, insomma è anche andata un po' male dal punto di vista della fortuna, di quelle cose lì. Io non ho mai visto un incidente al primo giro come quello di Vettel con dietro 10 macchine con un colpo così e uno riparte, sì, insomma sì, chiaro, insomma, chiaro. È andata così, sono anche insomma. Segni del destino, sono le stelle. Sì, ma poi cioè, secondo me noi stiamo sempre a guardare la Ferrari, giustamente, anche con una, però insomma la McLaren che ha risorse enormi, o la Mercedes che ha risorse enormi, hanno preso dalla Red Bull quest'anno dei gran giri, delle gran paghe. La McLaren è finita dietro la Ferrari nel mondiale costruttori con una macchina che per molte corse è sembrata la miglior macchina in pista. Sì. Insomma, è difficile in un campionato così lungo fare proprio una classifica semplice, secondo me. No, certo, Giorgio, però sono troppi anni, Adrian Newey è un genio e questo lo sappiamo, però sono troppi anni che la Ferrari parte di rincorsa. Quest'anno a inizio stagione solo grazie ad Alonso è riuscita ad arrivare in Europa essendo competitivi in termini di punti. Questa, insomma, questa storia quando può finire, quando finirà e perché prosegue, perché la Ferrari parte sempre con la zavorra sul cruscotto. È un problema di idee di partenza, qui stiamo parlando di, non so, la Formula 1 è molto strana e molto divertente. Ci sono progettisti in diverse parti del mondo, una decina, una dozzina, che da zero partono e sviluppano una macchina. Queste macchine poi alla fine che vengono costruite in luoghi diversi, sono distanti due decimi. Nella loro complessità assoluta si arriva lì. Ora, il problema è che in quei due decimi ci sta una intuizione tecnica, un'idea, non so come dire, che fa una piccola ma una decisiva differenza. Il problema è che non ci sono in questo momento, secondo me, progettisti in grado di fare una macchina nettamente migliore o migliore così come l'ha fatta Newey in questi anni. Sì. Devo anche dire una cosa, è molto importante questa cosa. Cioè, Newey, lavorando alla Red Bull, ha potuto per 4 anni prima di fare sta macchina, che poi è una macchina che si è evoluta in questi 3 anni, che ha vinto tutto, ha potuto lavorare senza la pressione che hanno i tecnici della Ferrari su una sperimentazione che ha portato a questi risultati. Lavorare alla Ferrari con la pressione che conosciamo complica un pochino, cioè ti impedisce di azzardare, di rischiare, perché se sbagli di brutto non fai neanche non fai un anno così, fai un anno in cui perdi il posto. È come giocare nella Juventus. Sì, insomma, forse ancora peggio, cioè perché qui è un problema che se tu sbagli all'inizio dell'anno, cioè se tu dici io prendo una strada, sposto il baricentro per esempio della macchina, questo è stato un tema che ha occupato moltissimo i progettisti, no? dove mettere il baricentro. Spostare il baricentro di pochi centimetri significa, per esempio, sto banalizzando una cosa che è molto complessa, significa prendere una strada che può anche essere redditizia, ma può anche rivelarsi un disastro. Ora, uno come Newey, che pure è un genio, preso dalla Red Bull, può dire, vabbè, non mi scocciate, io provo a fare, se perdiamo 3 anni non succede niente, e arrivare a questo. Uno alla Ferrari non può fare questa roba qua, non può fare, perché perde il posto e viene fuori pieno dopo tre corse. Questo assolutamente. Io aggiungo una cosa rapidamente. Io mi immagino che cosa sarebbe stato se fosse stata la Ferrari a sbagliare la benzina di Alonso a Abu Dhabi, no, in una finale di mondiale, no? O a sbagliare le gomme come ieri, no, come l'altro ieri hanno sbagliato. Allora, se succede agli altri, in qualche modo, è bastata una, per esempio, una comprensibile nervosismo di Alonso nelle ultime 2 o 3 gare per vedere chissà quale frattura, no? Insomma, è chiaro. È più complesso star lì. Grazie Giorgio, ti ringrazio molto. Grazie a voi. Grazie a Giorgio Terruzzi. Dunque, faccio appena in tempo a salutare Enrico dalla provincia di Pavia, poi devo chiudere. Enrico, dica, buongiorno. La provincia di Savona, mi scusi. Di Savona, così mi ha scritto. Ha parlato Terruzzi, guardi, lei l'ha detto, uno dei migliori giornalisti, quindi ha già riassunto lui tutto quello che c'era da dire su questa. Sì, mi sembra che abbiamo le idee chiare sul discorso. Prego. Io non guardavo più la Formula 1 da quando c'era Bruce Schumacher alla Ferrari. Quest'anno mi sono rimesso a guardare. Quest'anno ne valeva la pena. Certo. Ha fatto bene, perché quest'anno ne valeva la pena. Sì, Antonio, certo. Da Roma in un secondo. Antonio, dica. Senti, io sono un povero tifoso del Torino, volevo fargli una domanda. Anche lei contro i club organizzati? Contro? I club organizzati. Di tifosi? Noi siamo un gruppo di Roma, 700 km da Torino. Sì. Dove abbiamo fatto una cosa che a Torino in 60 anni non sono mai riuscito a fare, cioè portare una lampada votiva, cioè la luce dove è caduto l'aereo. Scusi, ma sono un po' emozionato. No, non c'è niente da emozionarsi, avete fatto una grandissima cosa. Io sono contro le tifoserie organizzate, sono contro i gruppi di ultra, sono contro quelli che vanno a fare casino, però non quelli che fanno qualcosa di utile. Quelli sì, certamente, ma guardi, si può fare qualcosa di utile anche tra amici, mettendosi insieme senza bisogno di alcuno striscione dietro al quale andarsi a riparare. Cosa vuole che le dica? Io so benissimo che ci sono gruppi di tifosi organizzati che fanno beneficenza, che fanno delle gran cose, però ripeto, l'organizzarsi dietro uno striscione, dietro un tesseramento eccetera, lo ritengo una cosa inutile, quando poi sugli estremi non diventa dannosa. Grazie a tutti, convocati domani dalle 2 alle 3. Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadone in regia, ciao. Questa luce sparata, sembra usando.